state chiamando? Chi? I carabinieri di Atala? K. Va bene, dai. Senta, Brasile adesso. Brasiliano è questo. Ehi. Avanti Brasile, attenzione Italia, Italia fa chiamata. Mettiamo un po' di potenza, attenzione Brasile, Italia che fa chiamata, breco. Ma non intengo più. Abbascio un po' qua. Te lo senti? Ma ci stava rispondendo? No, ti sente, no, è Santiago 2 qua. Se sale a Santiago 9, di solito di notte mi senti sul canale 9. Su 9 e su 10 parlando. Senti Messico, Brasile con la roba lì, torna a Santiago 7, 8 addirittura arriva. Gappa. Sono ancora bassi di tua pagazione. Aspetta appena si alzano. Tanto di solito su 5 su 16 ti quando mi torna a 9:20 qua. Sono Santiago 5. Vai verso le 6:30, come te ne intendi. Gappa, già vado a Gigi io. Attacchi chi su verrai, già arrivi in Brasile. Gigi amoroso. Gappa, quando c'è cosa buono. Una volta avevo collegato io, ma per sbaglio. In direzione avevo fatto chiamata. Mi aveva esposto il Kentucky a me. Poi ero da feste. Perché non parlavo inglese. Gappa. Ma che si brasiliano idratano in roba fossime? Sì, brasiliani sì. E tu fai la corrente attacca dall'antenna. Ehi, vabbè. Chi si esce indirettamente con la corrente nell'antenna? Niente di stato probabile. Cazzo. E ti bari? A me il bari 4 batti non li conosci in certi paesi, no? No, cioè, paesi no, vabbè, gli americani c'hanno un'altezza, ricordati quello, non è che pagano come le vogliono, i palazzi era 5-6 piani, ma li sono grattacieli, sono, quindi immaginati tu, se ti vuoi un'antenna sopra grattacielo in Kiwi, cro. No, sopra grattacielo non è buono, quindi no, se si farà iosso. Andiamo a cosa? Andiamo a... Eliminati arabi, c'è su quei grattacieli alti in mezzo all'acqua, mica, tu dici è poco bello mettere una mantova, quando c'è qualche temporale, non sai come ti incendia l'appartamento, cazzo. Un amari. Ma ho visto la mantova, cazzo che cosa curioso che ha. Praticamente dentro il tubo c'è una specie di spessori che bloccano e basta. E quella ce l'ho io. Non sono spessori, sono... prima l'altra l'avevo fatta diversamente, ma adesso invece c'è il tubo direttamente. Poi ci sono gli spessori di vario... capito? Ci infili il pezzo e ti bloccano lo stilo così. Capito? Così ce l'ho io. Però la vecchia mantova a tubo è la 5, è totalmente diversa. E cosa ci aveva? Nulla, ci aveva la forma dello stilo, in pratica quei 50-60 centimetri e l'avevano fatto una specie di piegatura, in modo che il diametro del lato stilo entrava giusto, capito? C'era la striscetta, mettevi la fascetta e a posto. Gioppa, ma sono antenne fatte veramente bene. Io l'ho vista oggi come è, l'abbiamo smontata. Mi ha aiutato una persona a fare annida, perché c'ha problemi. Cavolo. Fatta bene. Vabbè, molto meglio di quella c'era... Tu non l'hai conosciuta, ma io sì però. C'era la Firenze 2, quella era in alluminio, 3 mm di spessore, sono di più pure, capito? Li mettevi, mi sembra c'erano delle fascette, non me lo ricordo bene la verità. Poi sopra l'ultimo pezzo c'aveva il tappo di plastica, capito, era alta 5 metri, qualche cosa, 5,50 50 mi sembra, o 6,50, adesso non è che mi ricordo bene, e chiama la carica in rame all'interno. Poteva andare, in pratica quando era lì si regolava la stazionaria da sotto, c'era una rotellina rossa che ti regolava la stazionaria. In più quell'antenna andava tranquillamente in 45 metri e in VHF risuonava, faceva tre bande contemporaneamente la frequenza 2, solo che vai a trovare, non si trovano più quell'antenna, che c'era minimo la vende 250 euro, ma sarà molto difficile. Erano belle quelle antenne, duravano anche 20-30 anni, erano di lusso. Poi avevo fatto la Mantova, le 5 ottavi, eccetera, eccetera. Adesso avete visto che sono uscite le ultime antenne, che sono lunghe 10 metri di stilo, ragazzi. Una nulla è 10 metri di stilo. Kappa, allora io devo lasciare. La nuova Grazioli è 10 metri alta. Altro, ma quella è una bestia, Ok, dai, io vado che devo andare a fare una cosa. Ci sentiamo, ciao ciao. Ciao, ci sentiamo. Pronto, alle prossime. Ciao ciao. Mamma vuoi meco che se lleva la copia del mio. Meco che se lleva el muchachón 2. Meco que se lleva aquí la copia al muchachón 219. Tirándote de Pachi Ibaña. Taito. Hola. Chicos. Ma la schingola? Ma no, mica tanto, la verità. Vabbè, c'è una magliettina in giro ancora, In magliettina. Un Yamaha in magliettina. No, poi il giubbotto in macchina, poi guido la maglietta, il giubbotto guido io. Cappa grappa. Uia. Aspetta un attimino. Se mi arrivi sul gozo. Volevo fare una prova. Fai, dai, sono qui tanto. Oh, ci sei, Cristian? Io sempre ci sono. Aspetta che faccio una prova. Fai, no, sono qua a me, sono in radio, dai. Cristian? Sì, sono basso, come mai? Quanto sto arrivando? Niente è buono, ma radio bassa. Capo, non so, c'è un portatile, com'è? È buono, c'è un portatile buono, dai. Cappa, bene di segnale o è basso? È sempre 9,30, è la radio che è bassa. Qui addirittura, sono con l'antenna più piccola. Arrivi bene, a questo smetto 9,30, tutti di così arrivano quasi. Però come radio è bassa, un po' bassina, ma va bene per lo portatile. Cappa, aspetta che accendo il coso. Guarda se è meglio la radio adesso. Si è migliorata parecchio. Kappa. A 4 watt sto uscendo. Già va bene, c'è anche per i maglialetti. Kappa. Com'è di segnare? Sempre 9,30, vabbè, mi hai detto. Sono con la Storm 27, quella piccola. Sempre 9,30 arrivi qua. K. No, già va bene, dai. Vedi, già va bene. Ma non ha una cosa del genere di segnale. Va bene, dai. Sono d'accordo. Grande, vai. Hola, hola, hola. Hola, hola. Ma va bene, se segnale va bene, non puoi... qui, c'ho segnali QRM a livello di Santiago 7. Ehi, HK, dai. Ritorno adesso, devo mettere un barilotto per farlo un po' più lungo questo cavo. E poi la posso usare anche questa, va. Come cazzo d'anno, sì. KK. No, sto parlando con... 41 con un portatile. Antonio con un portatile. Ehi, la K, sta provando un portatile, sta provando. Ehi, K, non mi senti? Ehi, già mi senti adesso. Se lasci la radio grande, l'antenna grande, sì, ma con gli altri non ti sento. Con questa già un altro discorso, vai. Piano piano, eh. Ehi, c'è un salguba, la sabba e mette la bugaglietta e il gomo, lo raggio dritto. Ehi, un attimino così, Sì, ma attaccalo per parlare con i tuoi vicini di casa, ma qua arrivi basso basso. Cappa, no, no, vabbè, sono una prova, era un attimino così, ma da trapazzo. Come quando mi imbago l'antenna, mi metto un'altra di questa sicuramente, una nuova però. Metto l'ultima uscita che va molto meglio, se la metto a quell'altezza là, dove adesso questa già schicchieggia, molto meglio. Questa è questa, quella là è quella là, non c'è niente da fare. E questa riverisce l'altra, è una stronzata. Ehi assaggia, già ti ho capito. Ehi. Adesso l'antenna, anche io mi regalo di non creare a me. Cosa qui? Adesso mi ordino la Venom per casa, mi ordino io. Beh, una Venom è una buona antenna, mi sa che trattende la Storm, ma a partire dal gomma. A casa più che altro, tanto per il piccolo, leggera, aveva problemi sul tetto, capito? È una buona antenna, ce l'ha la Franco California, qua arriva a 9:30, arriva benissimo. Così metto un baracchino a casa, un ammettatore, mi lascio questo qui in macchina e modulo da casa anche. Questa è un altro pianeta. Lascio un altro pianeta, ci sentiamo dopo, ciao gente ragazzi, ciao. Ciao Cla, dai, a dopo. Cappa, ciao ciao Cla, ci risentiamo. Sì, Quindi muraro zinoghi, aspetta che mi esce un pezzo dietro il mobile e lo recupero. Aspetta. Bravo, lo recupero. Se ci riesco esce a vedere. Marco mai va giù i bracci lunghi. Un bel lunghi virai. Ecco qua, no, l'ho recuperato, ma già ho le braccia lunghe, per fortuna. Mi aiuta anche lavorando, mi aiuta. Avrei le braccia così lunghe. Guarda, le mie braccia non sono piccoline, sono andata a belle tecce. E sul mio lavoro contano parecchio, fida. Cappa, tu mi hai anche lì. Io ho brutto le braccia lunghe, c'ho. Un po'. E già va bene perché mi aiuta. Adesso prendere una cassa di mattone dove si penti da solo, figurati. Andiamo. Sono bucato da voi, mio ginecchio, una bella pizza. Io pensavo, non so, mi fare una cosa di pesce oggi. Una giugana, annaggio. Ho pigliato una gigante, biglio, alla manco più. Va meglio, va, capito? Questa è una bella gigante, a voi c'è da mangiare. Tanto una gigante sono, mi sembra, quasi tre pizze normali sono in tutto. E allora? Non si posso pure un po' di salsiccia in mezzo. Cappa. Vabbè. C'è un pochettino di mal di testa, questa cosa marasolsia, è il tempo, non si può fare. Gappa, gappa. Stazionaria, appena si muove l'ago. 1-1. Io ho problema alla gamba stamattina, ma la temperatura stava scendendo. Già un surgio. Ma io ho due ospiti nel ginocchio attaccate che non togliere, ma si possono togliere. C'è la bagappa. Praticamente hanno in bocca un pezzo in tacco. L'ho messa sul tetto così. Adesso vediamo cosa. Quanto rende questa antenna? Sì, già rende, dai. Cappa. In città si fa sentire così, ma non. Poi fuori non si viene nulla a me. Parlare la mattina palazzina, e basta. No, parlare un'altra. Cappa, già faccio un lavoro più come si deve, adesso l'ho messa così. L'ho messa. Il gavurongo, vivone, il gavurongo, messa bene con le staffe che ho, tutte le cose. Guarda, io staffe ce l'ho già a casa, il palo ce l'ho già, e il capo ce l'ho già, adesso mi do l'antenna e poi faccio passare dentro la cameretta e faccio la vetta. Scappa, la ringo, non me lo dai va. Non va bene, no, tanto mi alza quasi 7 metri, pesa 3 kg e mezzo, e poi la cameretta basta, è la fatta pura. Che è avanti? Sto aspettando una persona, vedessi, ne avvara che se mi dà la energy. Da voi me la futura balle. Guarda. La energy già fa un po' a volte già. Ma che è l'energy? Midran. Ma quella sì che è pompa forte, no? Cappa. Già. Fatta te lascio lì. No, sono dovuto uscire. No, io mi sono addormentato, non sto per una cosa e mi gioco brumito. Era un po' stanco. Buonasera Cristian, buonasera a tutti gli altri amici, dai. Gianni. Allora, non te l'ha ancora ordinata la te? Cristian. Dimmi. Non te l'ha ordinata la Enel? Perché me la ordino. Cappa. E questa è una fesseria, costa sulle 66 euro, cosa del genere. Per quello che rende, costa una cazzata, costa poco. Me l'avevo ordinato lui, così si faceva una barazza. Ho avuto altre spese questo mese. E poi te la faccio vedere in fotografia, vai. Va bene. E anche io non è che stia scherzando questo mese. C'ho spese di cosa? Di assicurazione, e quello e quell'altro, il condominio, tutto. Aspetta che non abbasso, dai, un attimino. Questo mese è sempre stato così, gennaio e febbraio si ammazza neanche, t'accoglio. Vabbè, già, cosa vuoi fare? Purtroppo è così, E dopo è aumentato tutto aumentato, va a comprare la pasta aumentata, va a comprare quello aumentato. Cioè, tutto aumentato, sia i generi alimentari, sia la benzina, sia la luce elettrica, tutto. Già lo so. Ho cambiato l'alimentatore, ho cambiato perché mi stava. Dopo un casino era ben di Guido. E che alimentatore hai messo? Un altro che ne avevo, un altro switching. Ah. Cappa. No, questo qui non se ne sente. No, io ce l'ho da 50 ampere, quello che si mette nei computer. E funziona veramente bene, non dà problemi. Ne ho due di quelli di computer. Ma da 50 per c'è la poca gente, sono tutti da 25 e 30, io ho preso da 50. Ma qual è? Come quello che ho io? Cioè, quello lungo così. È quadrato, io gli ho messo il tastino sopra, lo accendo lo specchio quando voglio. L'ho fatto come un alimentatore, dai. Va benissimo, non dà problemi di nulla. Però aveva buscato Fabrizio, gli avevo ordinato una quantità grossa perché dovevano cambiarli anche a ripetitori e mi ha detto se mi servono ne avevo preso due. Uno l'ho dato a un amico che l'ha voluto e l'altro l'ho tenuto io. Ah sì, io quello è il mio, però il mio da 30 e quello là è da cosa, come si dice? Adesso non mi viene. quello che ti da 50 anni non cambia mai nulla. E c'è un che ti porta di più, certi apparecchi che non ce la fa a 30, ce la fa con la 50, quello cambia. No, questo funziona benissimo. Non lo metti in dubbio, altro che funzioni. Prova a attaccarvi un lineare grosso a vedere se ce la fa portare. No, oh, vabbè, cosa ventra? Io qua ci ho attaccato i lineari, capito? Beh, è normale, se no sulla 30 non per avanti. È quello che ti sto dicendo. Cristian, la casa. No, è al telefono. Arrivi. Ora ti sento basso dove sono io, eh. A me mi senti basso? C'è in mezzo del palazzo che c'è un po' di QRM che mi sta ammazzando. No, io sento forte. Sento forte anche a te, sì. Sì, ma il problema è che io a Gianni lo sento basso, sono in mezzo dei palazzi. Sono sicuro dei palazzi. È un po' di QRM. E adesso mi senti, guarda. Sì, adesso ti sento bene. Ma dove sei? Dove sei, Cri? È sparito. Cristian! Chi sa di è? C'è propagazione oggi, no? Ma ho detto un buon po' per vedere l'americano. E senti in dia. Anche io sentiti quando c'è quando le sentito le sentite anch'io, però basta. Non erano molto forti. Ma voi venite i brasiliani, non si comprende nulla. A parlare l'inglese già li capisci. Cosa ne gioco io? E tu puoi vedere il sassarese. E appunto, vedi come ciò cane voi. Venuto grosso. E appunto, dove eri Cristian? Io sono la chiamata al telefono. Ah, e tu in che zona sei? Via di Mille. Capo, no, mi nervi forte. Se non vedi c'è Radio 5. Aspetta, già da centro basso sono mezzo ai palazzi e sono tappato. Vabbè, io sono della... sono molto favorevole verso quella zona lì. Per quella zona abito in pieno. Adesso non sono accorto. Chiappa, magari nella zona più del... messo tra i punti, un po' meno. Anche la zona di giù e cosa, ma quella zona sono favorevole. Chiappa, invece l'altra zona c'è molto più favorevole, altro. Ehi, avanti. Buonasera Antonio. Buonasera. Ho attaccato un bambinello, come sto uscendo? Forte sì, ma l'ha attaccato? Sì, non al massimo, però sto provando. Acceso è? Dopo 40 sì. Pentolina. Della pompa già. Sta andando sì. Ehi, ya. Lo provo anche in altre frequenze a vedere. No, deve andare entro quelli così standard, vabbè. No, già c'ho anche l'SSB. Ah, sì, no, occhio che se li dà troppo con lineare soffremi. Quanto ti dà quella radio in SSB? Questa mi dà 13, ma già gliela abbasso, magari la faccio uscire con 7 watt, capito? Meglio, perché se no lineare soffre. No, per adesso è fresco ancora. Cappa, c'è uno stazionale, non scalda. Buonasera, Carlo. Buonasera Gianni, chi altro c'è? Buonasera a tutti, io sono entrato quasi di prepotenza, scusatemi, ma è che stavo provando. Buonasera, non c'è problema. Mi metto gli occhiali per far sentire un passaggio in là. Via, va bene. E Antonio? Ehi, adesso fai la prova e vediamo un po' com'è. 1, 2, 3, prova, 1, 2, 3, adesso aumento un pochettino, 1, 2, 3, prova. Sì, sempre 9,30 si nomi. Ma qua non cambia molto, lo sai. Vabbè, per Antonio arrivavo anche prima forte, capito? Bisogna vedere con gli altri collegamenti un po' più da lontano, tipo Alghero, Porto Torres. Quasi 9,30. 9,30 di lusso, ma sei attaccato adesso? Sì, sì, sono attaccato. Stacca? Adesso è staccato. Non cambia nulla, per me c'è sempre 9,30. No, già è cambiato qua già. Qui no. Vabbè, io ne ho di più, E lo sai cos'è, Anto? Che non sono al massimo, perché come mi hai detto tu gliel'ho abbassato, perché non, se gli do troppo poi in uscita magari scalda. Al massimo 10 watt. Sì, ma adesso sarà tipo 6-7 watt. Allora è buono. Importante, sì, no, andando già sta andando bene comunque, dai. No, te l'ho detto, Anto, quelle Giuseppe me l'ha dato, è nuovo, se lo vedi sembra appena comprato. No, Giuseppe tiene bene le cose. Ma chi Giuseppe, non ci... No. Dai, un po' segnato. Ciao, no, già è buono già. Sono riattaccato, Adesso ho riattaccato. Sì, la radio è buona, non c'è problema. Meno tardi ho dei problemi. Sì, infatti i risultati li vedo magari lì, perché senza arrivo Santiago 9 o 8 e attaccandolo allora vedi la differenza. A dir la verità l'ho preso più che per la macchina, più per qua, ma è giusto perché lo stavo provando un attimino, l'ho attaccato. Sì, ma non sai cos'è il problema, che tu già arrivi forte e quindi il mio apparecchio arriva fino a 9.30. Già mi arrivi 9.30, quindi la differenza non la posso vedere, capito? Perché più avanti non va. Sì, ho capito, già ho capito. Niente, mio, ho preso anche un alimentatore da 30 ampere di quelli cinesi di Ada, per capirci. E già sta andando, si accende subito la ventolina, però già è freddo ancora. È giusto, ero curioso di provarlo, vedere se funzionava bene tutto, così poi quando lo piazzo in macchina so già come agire, capito? Sì, io in macchina l'ho avuto tanti anni, addirittura io ce l'avevo un interruttorino piccolissimo con un led rosso, quando attaccavo l'interruttorino si accendeva il led e ce l'avevo all'interno, non si vedeva nulla, era dentro sotto il portaugitti. Anche io lo sistemerò in un punto dove non si vede, capito? Nascosto e così. Almeno rimane occultato e buonanotte. Ti conviene fare così, metterci che ho fatto io un interruttorino di quelli fini piccolini, con una lucetta rossa, con un accendi, si accende la luce, quindi si è anche acceso. Sì, farò una cosa del genere anch'io già. Chi altro c'è oltre Antonio? Qualcun altro c'era in ruota? C'era Cristian. Sera Cristian. Ciao Carlo, ci sono ancora. Sì, ci sei. Sono sempre in agguato io. Guarda, una volta ascolto anche. E una volta non vedevo manco di parlare. Capito, oggi mi arrivi più forte, sei vicino da queste parti qui. E via dei Mille. E Santiago 9 più 20 qua stai arrivando. No, via dei Mille è vicino alla farmacia, guarda. Ancora via Sardegna. Sì, ho capito, sì, già è un'ottima zona, perché a volte anche io andavo da quelle parti a casa e arrivavo bene da quella parte. No, sono più del QRM, sono in mezzo ai palazzi, mi stai messo a mazzo del QRM adesso. Lo immagino. QRM le parte da 3 a 9 quasi. Sì, ho capito. Adesso provo in SSB, scusate se volete continuare, voi poi già rientro subito qua, che voglio provare in SSB. Giusto massimo 5 minuti poi rientro, grazie della collaborazione comunque. Cappa, ma cambia canale se non ci splatti. Sì, no, già me ne vado lontano. Cappa, va bene, siamo qua, dai, con lui rientra, avanti Bobolini. Cappa, se vuoi sentire un po' pensa te la faccio sentire. Non fatti di stravaganti. tu puoi, io no ancora, Io sono piccolino ancora. Ma perché la radio così bassa, Cristiano? Dimmi. Come mai la radio così bassa? Sono in mezzo ai palazzi oggi, e per te sono negativo. No, qua arrivi benissimo. Sono in via dei Mille, in mezzo ai palazzi, ti sento basso pure io, è un po' di QRM, in mezzo ai piedi. Cappa, no, qua arrivi sempre forte, qui. Senti, vabbè, ero qui, Cristo, adesso mi ascolti. Sono negativo perché sono tappato dai palazzi. Non mi senti? Adesso ti sento, però il problema è che sono tappato dai palazzi io, capito? io ti ho capito, sì. Ma con l'Argo 2001 che hanno chiuso nei palazzi, ti senti bene? Per quello ordinerò, dammi il tempo a tempo, pure quella mettere in macchina, dai. Quella è una signora antenna, l'unico problema è che è alta, devi stare attento a non toccare alberi, questo e quell'altro, però su strada lunga come la facevo io, Sasha di Portottore c'è una bomba. Quella è eccezionale, ma sentite Roberto da Platamona con l'antenna qui, Santiago 8, figurati. Ma Roberto non c'ha problemi all'antenna. L'altra volta. Ah. E l'altro giorno stavo facendo tipo fuori frequenza, faceva stazionare e un beato. Ma questa antenna mi ha sentito anche, mi, Antonio da Itti mi ha sentito, vero Antonio? Sei arrivato a Sassa lì, qua da me arrivi bene. Ed era Itti lì, e noi sportivi a Itti lì, figurati. Sì, ma io sono molto favorevole lì. Ma se avete 2001 che non mi siete allora, a palla. Ma non vi grida mai con che era Itti lì. Senti a Crepi Sportivi, che è un amico che ha fatto il torneo di tennis, il figlio di un amico. Questa zona qua è molto favorevole a quella zona lì. Per posticino lì, c'è perché andare di nuovo. Kappa. Salutami a riserva, Antonio Riserva. Ho un fratello. Quanto sono di casa i tiri io. Davvero, i tiresi siete. Sono mezzo tirese e mezzo cacchidano. Cacchidano? E a Castelsardo già li conosco. Da parte di mio padre sono mezzo di Castelsardo, da parte di mamma sono due tirese. Cappa. Di Castelsardo è babbudoio. E a nonna. Ah, ma ancora c'ha contatti, chi conosce? Mezzo Castelsardo. Allora conosci a Cozzo, a Fabio che si porta le bombole. Noi siamo occidenti di Castelsardo, mia nonna era. Ti ha giudito a Fabio che si carica le bombole, il Gunnoci. Penso di sì. Ah sì che lo conosco, sì. Porta la bomba a un amico. Quello è il cugino di babbo. Porta la bomba a un amico di Castelsardo, un amico che abita lì. Danilo si chiama questo qui. Cappa, quello lì è il cugino di mio padre. Si chiama Danilo Pluto, è un collega di radio nostro. Ah, sta in Cassetto. Cappa di Roggio. Ma prima abitava qua. Si è abitato a Sennuri, poi alla Valle d'Oria, adesso a Castelsardo. Chissà se ci arriviamo a Castelsardo, non ho mai sentito nessuno. Oh, Castelsardo ragazzi, Pavesi, cosa ti posso dire, tutta la zona di Coso, di Santa Teresa, quella zona lì sì, però Castelsardo è zona nostra. È un bel di montagna, certo. Anche in macchina io arrivo a Sassari da Badesi e da Castelsardo invece era sulla roba. È un bel lontano, Ma però già vi sentivo io un po'. E Badesi è più lontano di Castelsardo, eppure da Badesi mi sento da Castelsardo, no, come si spiega? Perché vuol dire che non c'è un varco per passare verso Sassari. Castelsardo... Io guardo l'isola rosa, tutte le parti arrivo da qua, però Castelsardo è negativo. Poi magari se c'è qualcuno che ha Castelsardo in punta, roba del genere, può anche essere che si possa parlare, però. Eppure tutta zona di mare, da Castelsardo a Sassari zona di mare. Ma vedo le montagne però. Castelsardo però è anche in punta e se vogliamo la zona di sopra dove c'è il castello lì è zona buona. Già lo so. Non venisce uno, se no magari già se potevamo fare la prova. Dai, lasciati in ballo finite, tanto vai, lasciati in ballo tutto. Ancora non vi sei. Ma poi ci sono, fidati. Cappa, anche zona sì. Faccio una via di mille. Ancora un po'. Adesso si compicchiano. E qua c'ho pure le palazze adesso, sono giardini pubblici. Non vedi. No, e non che di più. Vicino a te, anche normale. Tu sei più basso di chi? Cappa, qua già sta cominciando già ad essere più di 9:20. Dai, io sono piccolino, dai. Allora, per essere dove me, Tu sai onde è Bruno, la palestra? Sì, lo so dove, lo so, vai tranquillo. Se tu venchi, via allora c'è a fondo scala. Ma io pianta io me sta andando verso il centro. Tu parte da con una Mariana. Scappami, senti cosa ti faccio. Buono di sotto a vedere. Che scalda lui. Tu sei vicino al mio medico. E andiamo medico d'olio. Una pizzeria. È quello che sono picco. No, c'è la seconda Mariana. Scappa, scappa. Vieni faccia Gigi mi. Sono Gigi, sono Gigi. Dani, pensa che tu vai, per favore, va. E cosa ti devi fare? Tu già. Non si può fare in casa di là. Aspettami. Va, lo spegniamo, va. Pensa dove arrivo, bene o male. Cosa, Cri? Cosa hai detto, Cri, che non ho capito niente? E adesso come ti senti? Come mi senti? Ancora un po' ti devi avvicinare. Sei già a 9, più di 9.30. Vabbè dai, sono a Santa Maria adesso. Cappa grappa. Risa, a che punto? Esatto. Non sei in corso Vicco. Ci siamo riusciti a prendere niente da prendermi una tuta per lavoro più che altro. Grappa grappa. Già sei bello forte già. Allora sei per quello, Ma sei più forte ancora. Adesso mi uscito a prendere, prendo la tuta, poi mi devo andare a casa. Tutto tanto a riposo. E domani ho la giornata del lavoro. E cosa si vende in casa? E domani devo andare a lavorare. Ce la paga a lavorare? Davvero? E mi sei andato un comune? Domani sveglia alle 10:30, devo essere in negozio alle 8, tanto fammi la doccia, colazione. Come stai lavorando? Dove sto lavorando? Non ti ho sentito, c'è questo... Dove sto lavorando? Non ho capito. Lo sa Gianni dove sto lavorando? Non può dire. Ah, vabbè, vabbè. Si tratta di ceramiche, più che altro. Se c'è lavoro, va bene. No, 50 la giornata, ci ributti tu. Allora va, non bene, no, benissimo. Pure un'antenna invece. C'è uscita la carabina, c'è uscita ieri, c'è uscita la carabina in contanti, figurati. Scappa, ecco per me, dai, un attimino sto entrando, vado in bagno giù. Oia Gianni, ripeti il microfono. Sì, io la... Vabbè, ti ha confermato, no? Ancora no, però se rientra il mio collega, adesso vediamo se rientra, se no per farmi altri 15 giorni in più. Vabbè. Magari ti conosce, vai bene, ti fa lavorare. Ah, lavora bene, pulito, ordinato, molto pignolo sul mio lavoro. E quello, di fatto sono pignolo sul mio lavoro, io guarda. E io sono pignolo su tutto. Chi mi ha conosciuto lo sa che sono pignolo. Non so se sei signori, però sto un po' da quando ci conosciamo da un po' di anni, dai. Però la pignoleria non guasta mai, la perfezione non guasta mai. Anche piazzando l'antenna sono perfetto, sono pignolo, mi piace fare le cose bene. Non mi piace fare due lavori in alto più in fretta, no? Isolvere tutto. Ho messo i tassi di quelli a occhietto, prima di mettere il tassello ci ho buttato dentro il silicone nero, poi ci ho messo il tassello e poi l'ho tutto coperto, non si vede nemmeno che è entrato il tassello, sembra catenato così, perché c'è tutto il catrame, non voglio far vedere nulla. Quanti conosciamo noi di persona, dopo un sacco di anni, dai. Antonio lo conosco prima di te, Antonio lo conosco tantissimi anni, da quando abitava in via Giotto, immagina. Guarda, conosco anche così mio fratello allora. Cosa? Mio fratello mi conosce allora. È un mediano, lo conosco a tutti. Io ho conosciuto a te, però non mi ricordo quanti anni è, ma è un bel po' di anni. Guarda, io sono modulare dal, mi sembra dagli 90, sono modulare io, dal 90 forse. Sì, più o meno così, dai. Oh, yeah. Ma qua c'è musica. Sì, sì. Niente, guarda. No, sta cantando la mia compagna. Esci e chiudo che vado a spendere un po' di soldi, dai. Yeah, ciao, ciao, ci sentiamo, la chiudo anch'io. Che vado qua a cantare anch'io. Ciao, ciao. Ciao ciao, buona cantata, dai. Hola chicos, Letia, Gianni. Buonasera, non c'è nessuno? Sì. Lo vedi, che amico vedi, buonasera. Oi, amico di Porta Torres. Buonasera, ciao Antonio, avete parlato in due però. Capa, chi è l'altro? Carlo Antonio. Oh, ciao Carlo, eccomi qua. Il mio volume è basso. Buonasera ragazzi, allora che si dice? Che si dice, mi? Qua siamo. Campa. Sì, ho collegato col microfono finalmente. Bene, come lo sentite questo qua? Oh, negativo, l'ho staccato. Adesso è quello normale, però i collegamenti li ho fatti giusti, capito? Il microfono funziona bene come microfono, ma è la radio che non lo fa amplificare, capito? Questa radio che ho io non cambia granché. Come microfono normale è buono, nel senso che lo tengo come ricambio, eccetera. Dovrò agire all'interno della radio però, perché devo trovare un trimmer che praticamente mi esclude l'amplificazione di altri microfoni esterni, capito? E quando faccio quello poi lo riproverò, però diciamo l'ho provato a collegare, va bene. Ah, ho capito, c'hai l'LC chiusa, dai. Esatto. Ho capito. È strano, perché funziona bene il microfono lì, va bene. L'ho sentito anche su altri apparati, funziona bene. Forse c'hai l'LC chiusa, tarata, dai. Sì, esatto. È che devo capire dov'è, capito, perché mi devo un po' mettere, vedere se trovo nelle istruzioni, se c'è lo schema e se lo individuo, così apro e lo regolo in apertura. Ok, va bene. D'accordo, allora ti viene a collegarlo adesso, fammelo sentire se cambia qualcosa. Adesso sì, perché ce l'ho giù, ho capito. Stavo facendo altre prove perché ho preso qualche altra modifica e quindi prima infatti ero con Antonio, mi stavo provando, già va bene anche questo che ho preso. Ma quale stai usando, il microfono amplificato? No, il suo originale, quello della radio. Ah, il palma è normale, va bene anche questo. Antonio, mamma! Aspetta un attimo che sono al telefono. Sono bello grosso Antonio, occhio mio, è cattivo. Com'è il vento c'è a Porto Torres? Sta entrando, ci hanno già avvisato che domani le navi sono saltate, tutte le navi sono il porto interdetto, tutte a Olbia. Mannaggia, se ne vanno tutte a Olbia. Cosa entra? Maestrale? Domani maestrale forte, dai 42 a picchi di 49 nodi, oltre 100 km orari. Eccomi! Praticamente da domani dovrebbe aumentare il vento, sì, però non ho capito che tipo di vento era, ho detto se maestrale, se altro vento freddo, chissà cosa diavolo è, però se mi dici così a voi già vi avvisano. Sei entrato ragazzi? Maestrale forte, ti ripeto, dal 42 ai 49 nodi di vento, picchi di 49 nodi di vento, oltre i 100 km orari, staremo a vedere. Caspittina, 100 km orari è parecchio, eh. Ogni amare di venga, tutta hai fasciami tutto in onghe. Oh, sei tu a fascia. Che gli ha detto buonasera a tutti? C'è uno piccolino sotto, ma lo sentite? Cristiane, a voglia che lo sentiamo qua. Buonasera, buonasera. No, a me arriva Santiago Zero, sento il borbottio, mi sa da dove sento buonasera. Ehi, ti ha salutato, ti ha. Un attimino, ho sentito un brecco. Attenzione, buonasera, fate il brecco. Ma così piano mi senti? Buonasera Eugenio, buonasera Carlo. Mario Fototorres, ma volevo dire, da questo vento, dice, c'è da stare allegri con le antenne sul tetto. La bufera dell'altro giorno, sono identica la bufera dell'altro giorno. No, non stavo dicendo a te Mario, buonasera, stavo dicendo a Cristian, che a Platamon, credo che sia a Platamon, lo sento molto basso. Cristian, mi senti? Mi sento forte e chiaro. Mi sento forte e chiaro, vai, ti ho tirato fuori anch'io adesso. Poi, beh Mario, gli altri li senti? Antonio e a Carlo? Sì, Carlo, Carlo lo sento, Carlo, mi sa che non ti ascolta. Oh, ti ho suonato con la macchina l'altro giorno, stavi attraversando la strada, ti sei girato e non mi hai salutato. Stavo per girare, ritornare indietro e ti avrei calpestato in macchina. Ti avrei detto, mica sono il genio. A me sei dicendo. E allora, il giubbotto giallo smanicato? No, smanicato no, manicato. Stavo uscendo da lavoro e non c'è caldo, devo salire a casa, avevo fatto la nottata e avevo un po' di sonno. Va bene, Carlo, vai, ti sta chiamando Mario Vapolottore, se lo senti? Sì, scusate che stavo smobilitando un po' di attrezzatura qua. Sì che lo sento Mario, ha voglia che lo sento. Buonasera Mario. Buonasera Carlo, ma mi sei sceso un pochino, un po', insomma, un po' troppo, caro. Guarda se adesso mi senti più forte. Già lo credo. Ok, va bene così. Riprendi un attimo tu e oggi che sto terminando, poi due minuti e sono qua di nuovo. Ehi, ehi, Cristian, ma il cantello abbiamo, lo appiattiamo, cosa dovevi fare? Io sono stato da te, la meno, mi piace. Cosa dovevi? Tutto pra pra pra pra, sì. Andiamo, andiamo, cappa, cappa. Sì, mi dispiace, ma molte volte non riesco a capirti. Andiamo, andiamo, amore. Antonio. Ehi, dimmi, dimmi, avanti. Andiamo, andiamo. Sta facendo male, Cri. E come vai? Cappa, mica mi sta chiamando l'amico il Portatorres. No, ho detto a Cristian quando si piazza l'antenna che io non riesco a sentirlo. E lui mi ha risposto, cosa mi ha detto? Boh? Cappa, a me senti? Eugenio? Con te ce l'ho, fammi la foto con Cristian. Adesso ma vuoi di non mi di? Ma mi ha sovramodulato, Luca mi ha sovramodulato. Avanti Cristian. Che usciamo l'antenna, la Venon, me la ordino. Ha detto che se la ordina al mese prossimo. Ah, ok, ok, va bene. Uè, l'amico mio di Sassari! Luca! Luca lì è! Vabbè, sparito l'amico mio Sassarese, ah, babbo! Un po' meglio arrivo da quelle parti! Quante sempre girano tu? Come? Sempre a sette! Come sempre, a sette! Cappa, cappa! Ma forse è un po' meglio! Guarda a vedere adesso! Sempre qui sul Chivici! Sempre lì, non si muove di niente, sempre lì fermo! Cappa, cappa! Stamattina la portatore c'è in giro io, brutto! Cappa, Carlo! E Cristian, stamattina era dalle sue parti, me. Cosa hai detto, Cristian? Stava parlando Cristian? Eia, abbatti, Cristian. Cristian, vieni abbatti. Stamattina ero dalle sue parti. Aspetta, che stamattina era dalle due parti, oggi. Ma lo sai che per venire a foto ci vuole il mio permesso? Ci vuole il passaporto e poi ci vuole il mio permesso, il mio timbro. Ero con uno di Porto Torres, stai tranquillo. Ha detto che era con uno di Porto Torres, ha detto. Vai, e non si può sapere che hai detto? Non si può sapere. Cosa ha detto? Che non si può sapere in radio. Ah, tu? Ha detto che non si può sapere in radio chi è. Ah, ok. Vabbè. Cappa! Sei ricomuni produttore se sei giustificato, va? Io ho parete a Porto Torres anche, sta tranquillo. Tanto digli che ho parete a Porto Torres. Aspetta, che tu sei tranquillo. Ha detto che ha parete a Porto Torres e stai tranquillo. Ah, ok, allora possiamo quando vuoi, va? Sei giustificato. Anche i suoi colleghi forse sono. Ha detto che sono anche i tuoi colleghi. I miei colleghi? I miei colleghi sono i cugini, così è. Falchi? Falchi, così è. Ma non c'è nessun Falchi, collega mio. Io lavoro nel porto, eh. Lavoravo nel porto. C'è che lavorano al porto. Bisogna vedere cosa faceva. Al porto, bisogna vedere cosa faceva al porto, boh. Adesso non me lo ricordo cosa faceva, però procurava un po' di roba, guarda. Lasciamo perdere. Dice che procurava un po' di roba, lasciamo perdere. Boh, Falchi. Io ne ho conosciuto uno, Falchi. Però era imbarcato in Tirrenia. Mica una figlia, più o meno di una quarantina d'anni. Dice che c'ha una figlia di una quarantina d'anni. Una figlia che ha una quarantina d'anni. Non lo so. E vabbè, poi quando siamo a Quattrucchi ne parliamo a Quattrucchi, dai. Vabbè, quando sei a Quattrucchi ne parla a Quattrucchi. Se capita incontrarci, non c'è problema. Antonio. Marco Mare, mi sono qui, prendi la bonte. Vai, sono un amore, Antonio, ti meriti, un pistone gigante, guarda. Allucinante, da me non arriva, Sento il borbottio incomprensibile, ma non arriva. Sono in barra mobile. Ha detto che è in barra mobile. Ah, è a casa, ho capito. Cioè, in macchina, ho capito. Sicuramente un punto non dirò, non lo intende. C'è la Sant'Ursula. Cosa che? C'è la Sant'Ursula parcheggiato. Bravo, a chi in chi vi va a posto d'ora deve andarmi. Con me da, c'è il palazzo davanti in mezzo ai piedi. Mario, cosa sei masticando? Cosa stai masticando, Mario? Sto sciacquando i piatti. Ah, è già finito di masticare. Già ho finito mangiare sette. Sono con gli orari del nord ancora. Ma sei più abituato agli orari sardi, cosa del nord, dai, io, falla bravo. Guardi, forse di me non ce la faccio a resistere alle 8 e mezza così. Assolutamente, a parte che io alle 8 sono a letto, figurati. Oi. I tedeschi, quando usciamo fuori, quando esco col camper, con gli amici, no? Poi facendo baldoria la notte, si avvicinano. Parlare famiglia, sì, ma microfono no, io riposo. Mangiano alle 5, 7 e mezzo, sono già a letto, tutto spento, tutto, sono già a letto. Boh. Allora, la mattina si alzano alle 5, sono già in piedi. Io faccio la stessa cosa. Esmia da Eddie. Cosa e non riesco a fare qualche trappolo faccio d'estate, quando però d'estate ci vedono pure meno anche perché sei quanto me, aiuto, non fare queste sceneggiate, sei quanto me. Sì, con la coda, tu ne hai 50, ma ce ne 62 io. No, io 50 non ce li ho. Bianco per me, ce la risentiamo. Ciao Antonio. Ciao Antonio, ci sentiamo, vai. Tanto anche io tra un po' chiudo che devo andare a masticare. Allora Ricciardi. Cristian, ci sei ancora Cristian? Mi sono benissimo caro. Ma quanti ne hai? Non sei arrivato a 50 allora? No, io non ce li ho 50. 48 ne ho. E chi ti chiede? Cristian, quanti anni hai tu? Cristian, mi ascolti? Si deve essere spostato, sei in macchina, Eugè. Del 74 sei tu. Del 73. E allora io ne ho 10 più di te. 58. Sa. Compiuti già, perché io li compio a gennaio. No, ho capito. E vabbè, io ne ho 48. E vabbè, stiamo avvicinando ai 50. E vabbè, importante è che passi bene, dai, tutto sommato. Io non mi posso lamentare, auguro a tutti la stessa cosa. Carlo, io sono del 75. Ah, sei del 75? No, oh, adesso ti sento, Senti bene adesso, sì. Sì, dai, diciamo, il segnale non c'è, però riesco a tirarti fuori, meglio di poco fa. Ah, niente, stavo giocando col microfono, adesso lo sa a posto, dai. Ok, dai. Così riesco a sentirti anch'io. Sei del 75, vabbè, dai. Io sono del 73. Siamo lì. Mi chiama vista per dottore qualche domenica mattina, ma mi ha visto me. Non ti ho capito chi, cos'è? Ti ha fatto in giro? Mi ha visto qualche domenica mattina. So che ti ha visto qualche domenica mattina a Porto Torres. Mi hai visto? Una punto grigia con l'antenna sotto capota. Mi hai visto là a Porto Torres? Una punto grigia? Casco, ma noi due ci siamo mai visti, sì. Ma tu scendevi al porto a pescare? Pappa. Ah, vabbè, allora ci siamo incontrati una volta al porto. Ah, sì, siamo incontrati. Lì che ho una punto grigia, sono messo l'antenna sotto capota. Ho messo il baracchino. Vabbè, io te lo ricordavo il furgone bianco. Sì, sì, ti ricordo, adesso sì. Ah, ho capito. Tu sei il genero di coso, vai, ora giù un preso. Hai visto, visto che ci conosciamo, eh? Già sei piccolo, Ehi, ci siamo visti, già ho capito chi sei. Ho capito. Andavè. Oh, yeah. Carlo. Io prima avevo staccato perché avevo tutto in giro, stavo facendo delle prove e stavo riordinando, se no non potevo neanche camminare, tutti i fili sotto i piedi, capito? E, oltretutto sto anche masterizzando un CD che mi hanno chiesto e quindi ho computer acceso, masterizzatore, di tutto c'è in questa stanza. Ok, ma non stai più scendendo all'Asia a pescare? Non sto più scendendo a pescare, vorrei scendere a fare una pescata con tranquillità e mi. Tra un po' scenderò anche io di nuovo. Ah, andavè. Tanto che vedi la macchina, una punto grigia con l'antenna a lemma c'è tra cappotta, è la mia. Ehi, appunto, già me la ricordo la punto grigia, già me la ricordo, dimmi Mario. Oh, ti volevo chiedere, ma di quel mercantile tutti positivi, ancora lì fermo? Beh sì, sono in quarantena e ce n'è uno anche ricoverato all'ospedale in gravi condizioni perché il Covid gli ha bloccato mezza parte del corpo. Che chiesa, oh ya, quanto siamo, vabbè, sta uscendo un innesco adesso, comunque vabbè, dai, speriamo bene che se la cavino tutti i porti amici. Sono cos'è, 5-6 persone mi sembra, vabbè, robe da mano, non se ne esce più, vabbè, avanti pure. Sì, su 13 persone 9 erano positive, di cui una grave. E io ero lì, stavo lavorando, stavo sbarcando le paleoliche. Sì, però è vero, tanto fanno paleoliche, sì. E vabbè, dai, turca mi sembra, una roba turca, possibile. Vabbè, dai, speriamo bene, coraggio che lavorano, mannaggia la miseria, pure questo ci voleva. Vabbè, dai. Signori, vi saluto, io devo chiudere alcune cose qua, computer. a tutti. Ciao Mario, ci sentiamo prossimamente. Ciao ciao. Già ci si sente comunque. Ciao e buona notte. Ragazzi, ne approfitto anch'io per salutarvi, dai, che devo andare a masticare anch'io.